Ciao! Bentornati a tutti su Radio Alma, un caro e caloroso saluto dai vostri conduttori preferiti, queste 100 città, al microfono Jack. Francesco, sono le 8:10 di questo quasi piovoso 18 febbraio, questa è una serata speciale, Giacomo. Quasi caldo anche quasi 18 caldo. Febbraio. Siamo sopra zero. Siamo sopra lo zero ampiamente, si parla di numeri. Addirittura un paio di gradi. Festa. Roba non da tutti i giorni. Ho visto donne in minigonna in giro. Forse perché non abiti a San Gilles, neanche a San Jos, perché sennò le donne in minigonna. No, abito, sì, effettivamente. Forse non hai lavorato. Zona Schumann è diverso. Zona Schumann è un po' diverso. Non è né San Gilles a né volte San le vedi anche senza le calze. Esatto. Una roba da... Oggi ho visto una senza le calze. Però io mi allupo quando... Io sono talmente abituato. Io mi allupo quando vedo senza calze. Sento la primavera. Gonna senza calze. Oddio. Come un cane. Come sta bestia che abbiamo qua sotto. Tra l'altro è lei l'ospite. È lei l'ospite. Lei o lui? No, lei non canta. Meno, vedremo poi se canterà. Magari. Abbiamo degli ospiti d'eccezione. Come annunciato la settimana scorsa. Esatto. E come ripetuto, perché sai, Giacomo, io ho fatto l'ospite in una trasmissione spagnola ieri sera. Ma dai. Mi chiamo Objetivo Bruxelles e ho... Di Radio Alma? Di Radio Alma, parlando di couchsurfing, quindi faccio couchsurfing. Ah, già, è la popolarità, non tiene confini. Non c'è proprio una cosa. Benito Band! Applauso, forza ragazzi, applauditevi da soli. Oh. Quindi, qui in esclusiva per 100 città, Benito Band, sono qui a Bruxelles. Hanno una schedule molto busy, ma nonostante esatto, tutto, abbiamo delle star. Non scherziamo, per favore. Allora, abbiamo personaggi importanti di un certo rilievo. I ragazzi hanno un unico grande difetto, che non capiscono perfettamente la nostra meravigliosa lingua. Tenteremo di interagire con loro in inglese. Abbiamo fatto fior di preparativi. Esatto. Ce la faremo. Magari facciamo come tipo tu dici una cosa, dico io la traduco. Esatto. Tipo per esempio partiamo da... No, aspetta, prima domanda che gli voglio prima fare. Domanda perché, e sai, la tradurrò come... Stiamo parlando di una radio italiana. Certo. E quando dici il nome Benito, diciamo che ti vengono i brividi. Quindi vorrei chiedere ai ragazzi di levarmi subito questi brividi spiegandomi perché Benito... Prego, ah. Traduttore, prego. Why Benito? Well, actually, it's an unfortunate coincidence due to our considering our Italian audience. Scott and I didn't actually meet through our love of music, but actually through our love of Japanese cuisine. And Benito broth is a very, very regular sumptuous, thing used in it. Sumptuous Benito broth is actually the genesis of the name. Quindi sì, cioè, insomma, il Benito non ha niente a che vedere con il nostro Benito, esatto. Che era anche il nome del porco di mio zio. Ah, la soddisfazione che gli dava prendere in calci quel porco, brutto porco Benito! Non ha niente a che vedere con questo, era un locale, il brodo di Benito, e loro si sono infatti incontrati tramite cucina giapponese, questo brodo di Benito era il loro punto di incontro. Diamo Pensate. I nomi a questo... Esatto, ragazzi, prego, presentatevi. Give your names, just like, name yourself. What's your name? My name's David Cochi, I'm the drummer and deep voice of Benito Band. I am David. I'm Hamilton, and I'm the keyboard player, and I guess that makes me the high voice of Benito Band. Allora abbiamo un batterista e voce baritonale, e abbiamo un tastierista e voce invece acuta. Quindi, that's where your unique melody comes from. Esatto. Dove viene la vostra unica melodia. Powerful harmonies. Allora abbiamo esaurito il primo punto del nostro preparativo, che era diteci la vostra storia, le origini, il nome, eccetera eccetera. Sentite, vorrei far notare ai nostri amici ascoltatori la penna che sto scrive. Cancellando penna scrive. And guys, where do you come from? Da dove venite? Spiegateci why you start to play, and let's say a little bit of story of about your mind. Well, both of us are Canadian, though we met in Brussels about 2.5 years ago. We were sort of traveling the waves, we could say, and both washed ashore in the Europe's capital, and found ourselves similar interests, and decided, you know, with cheap eBay instruments, why not start a band? Esattamente. Una grande carambata, insomma, canadesi si incontrano a Bruxelles, in questo brodo di Benito, il locale giapponese, e decidono di ricominciare a suonare, perché avevano entrambi passioni comuni, interessi comuni. Good idea. Which is your kind of music? Exactly. Actually, we will listen to it afterwards, but... We have lots of names for it. We make up three words. What's the one in Italian? It's ska boscariaro. Ska boscaero. Boscaiolo. Boscaiolo. Il uomo alla pignetta con Ash. Ah, Boscaiolo. Boscaiolo. Scaboscaiolo. Scaboscaiolo. Interesting. Sono che assomigliano. Sì, effettivamente. You look like. Effettivamente sì. With respect to our Canadian roots, it's Scaboscaiolo. Giustamente, no, giustamente, giustamente. Alla fine il vostro simbolo, c'è cioè, una foglia di acero, no? Come si dice acero in inglese? Axe. Axe. No, axe is that. Yeah, I mean, the symbol of your flag is a leaf of maple. Maple. So that's a tree. That's a tree. Yeah. So the timberman scar. Lumberjack in English. Lumberjack. Yeah, lumberjack. But we never say that in English. It's a scabouchon for the French listeners. Ah, justamente, you are French or English speaking? French, can you admit to? We're both Anglo. Ah, okay. Okay. Ah, un'altra soddisfazione. Eh sì, esatto. Abbiamo c'è questo una... problema tra franco-canadesi e anglo-canadesi. But you both speak French. I mean, yes. Voi parlate francese. Sì, claro. Claro, sì. Volevo sapere se il conflitto fra canadesi francofoni e inglesi è lo stesso che c'è in Belgio tra fiamminghi e palloni. Bella domanda, bravo, bravo, Giulio. E non sei nemmeno preparato. Esatto, bella domanda. It makes us feel very much at home to have that conflict. Exactly. His question was, I mean, is it the same, more or less, so hard as it's here? But there was a referendum. In Canada, yes. There was a referendum in Quebec to separate from... Yes, there was one. The Anglo-French split in Canada versus the Flemo-French split in Belgium. This one's about sort of like devolution of centralized powers, and that's one the one in Canada is about certain people being unhappy with the way that federalism was born, and so yes, it is a similar problem. Oh, right. Through, I've learned at least 3 words, at least 20 words used. That comes to be useful. Scott's the political utile, no? Sempre utile avere ospiti stranieri. Insomma, a questo punto la domanda, due parole, 2 words. Why Brussels? I mean, I understand you met in Brussels and in 2 words? Yeah, no. No, 2 words is from us, but you have plenty Brussels, of choice. So you have, you're the guests and the star tonight. Allora. Why Brussels? Well, we met here and I don't know, Brussels is pretty alive, isn't it? You were saying that there's lots of places to go see music. I don't know, we fell into a group of friends here that made us very, very comfortable and never left. I came for school, was meant to be here for a year and right. Still here. Quindi insomma vengono a Bruxelles, sono conosciuti. Like in exile, more or less. Huh? You went here in exile from self-imposed exile. We came in exile too. We are exiled. It's a very nice place to be exiled. Yes. Actually. It's like the Legion. Everybody can come here. And you forget your past, you get a new name. Yes, you can wear different clothes if you want, because nobody knows what you dress like in Canada. You can even get a new passport, actually. Yeah. if you can really join want. A band and pretend you do it all the time. You have a busy schedule, but it's normally probably you're a drug dealer or anything like that. But you come here and you play, and it's justifiable, you go, you know. Exactly. No, ma anche noi we actually ran away from Italy, noi siamo scappati per le donne, for women, because we couldn't really... Sì, perché ce ne fregava tutto il Presidente del Consiglio. Because quindi, la traduci tu questa, però. Exactly, io... no, because he said, we escaped for women, and I added, yes, because our President of the Council was always stealing the women from us. I'm not translating this, I fully support the work of our institutions. He's a true Latin lover. I'm just giving him a compliment. There was a funny line, there was like in the 80s, this kind of the public prosecutors were not yet attacked, like not daily as now. And so there was like when maybe because they were less corrupted. So there was this guy who was discovered being corrupted through prostitution. So the people too corrupted to bribe him was what a news. Him. No, but the funny che thing novità. Is that he had. Cioè, sì, però problema che accusato di andare con le puttane. Sto giudice. No, la cosa bella è che sto giudice gli diceva. So like the public prosecutor said, like, okay, I offer my congratulations because I mean you don't go with one, but like he liked 2 or 3 at a time. It's like so. Vabbè, era un uomo a cui gli piacevano. Era un uomo. Il giudice disse, bravissimo, però perché doveva farcene pagare a noi? So like, the judge said, like, I offer you my congratulations, but why should we have paid for your prostitution? Esatto, fai quello che vuoi, ma non mettere dentro i soldi dei contribuenti. Però è un problema vecchio. Comunque, non facciamo politica. Esatto, qui, lasciamo le tristezze regionali. Abbiamo a anche casa. Abbiamo anche esaurito la seconda la domanda che era why Brussels. Allora vediamo di connetterli con il vero motivo. Cioè, nel senso, cosa ci fa una banda canadese che si è incontrata in Belgio in un programma di italiani? Qual è la connessione con l'Italia? why are you here? What is your connection with our country, actually? You have an experience in our country, didn't you? We do. We know it already, so... No, noi abbiamo suonato tre settimane in Italia questa verano. Estate. Grandissimo. Bravissimo. Bravo. Un applauso. Un ottimo bravo. Italiano, perfetto, perfetto. Quindi saprete dire anche vendo dischi, 15 euro. Abbiamo CD da vendere. ottimo. We met a group of Italian guys in Brussels. I ragazzi. Who organize now the anti-tapas parties, which yes. I'm sure you'll announce later. Amici. We'll be playing tomorrow night. But one of these guys is a bass player in a band in Italy and a very, very energetic person, very smart. Mm-hmm. And we toured with his band, Humus. Italian band. Yeah, ah. Un gruppo di supporto per questa band Humus, di cui Paolo, che era il bassista, era già venuto a luglio. Tu penso non ci fossi della puntata. Non lo ricordo. Non era venuto con tutto il gruppo? No, quella era la seconda volta che sono venuti. La prima volta è venuto da solo. L'invasione barbara. No, è venuto da solo la prima volta. Actually, like, Paolo's been twice, guess. No? Okay. Like, first time was alone, the second time he came with all the guys, so like 6 people. Yes. It was a long queue. One of the benefits of being a 2-man band. Esatto. Which city did you visit? Che città avete visto in Italia? Piacenza. Why? Piacenza. Parma. Perché abbia una festivale artisti di strada. A Vernasca. Ah, bello. Sì. Bello. Milano no. There is nothing to see in Milan. Exactly. Only the best teams come to Milano. They will be very famous, they will pass. Don't worry. He's from Milan. We went to Tezzocca in Modena. Tezzocca in Modena. Home of Vasco Rossi. Esatto. Modena is very cool. For rock music is really one of the... Là abbiamo un guy coming from more or less. No, not more, not less. It's your region. Romagna. It's your region. He's from Romagna. It's still your region. Romagna. You just split into parts. Did you meet Vasco Rossi? They have the same problem with Belgium, more or less. But the division is between gay and homosexuals. Io mi dissocio completamente da questa cosa. He is in the same region. Appunto, io non, assolutamente non faccio questa distinzione. Piuttosto no, you probably know Vasco Rossi. Vasco Rossi comes from Zocca. Of course, yeah. Yes. Everybody told us when we met there. Every single person told us that. We played in a bar in Zocca with a big picture of Vasco Rossi. Everywhere in Zocca. You know, in Italy, every city has got a saint, but Zocca no. It's got Vasco Rossi. No, home of Vasco Rossi. Padre Pio di Zocca. Exactly. Maybe we can go on with our survey and we can ask our guest, do you like Julius hairdo? Yes. It's fashionable. It's very fetching. Very fashion. Yeah. See? 100% people passing here like touching his hair and wanted to know which is the hairdresser, how much does it cost, stuff like that. Yeah, basically, it's a long story, but basically he went home for Christmas and he accompanied his girlfriend to this hair do salon. And he won one hair. He ended up being hair done as well. Oh, well, it looks very, very good. Thank you. So guys, so you played like north and then you went south. You had we went to Roma and Grumento Nova and Stigliano and Matera. We did a lot of very Avellino and Agropoli. We had so much fun in Agropoli. Agropoli, that was a great last minute concert. These people, they were like, you can come stay at our farm anytime, and we didn't have anything to do the next day, so they organized a concert for us in the Piazza Centrale in Agropoli. Nice. And, very nice, bella questa cosa. A lot of people had a fun time, slept on the beach, that sort of thing. Sì, erano ad Agropoli, questi prendi hanno organizzato il concerto. Dov'è Agropoli? No, it's close to c'era la spiaggia south of Napoli. Sì, sotto di Napoli, sotto Napoli. Okay, sotto Napoli. È nascosto dal Monte di Monnezza, quello non si vede. No, we said like it's hidden behind the trash mountain. That's why you cannot see it. Povero Vesuvio. It's a kind of an apocalyptic vision where right. Like there was once there was a war between humans and trash, and trash won. And if I would ask you to choose among the cities you have visited, the one you like the most, which one you would say? Che città avete preferito? Matera o Gallipoli? Gallipoli. Ah beh, two very beautiful cities. I like Matera. That was my favorite. Matera, you saw the stones. We played in a cave. Yeah, we played in Matera. People, you know that people lived and did everything. That died and everything. We were in one somebody's living room. We were playing in a cave in Matera. I sassi di Matera sì, sono famosi in tutto il mondo e sono forse il sito archeologico più antico che ci sia in Europa. Usato sì, dove vivono tuttora. Dove tuttora vivono. Tra l'altro sai che patrimonio che sono molti, cioè. E poi butti via le case? Assolutamente no. Sono pure gratis. Tanto, cioè, al contrario di Milano, sono un patrimonio dell'umanità. Esatto. Al contrario di Milano. Al contrario di Milano, abbiamo l'elettricità. No? Esatto, no? Sentite, allora, veniamo al vero motivo della nostra. Allora, sentiamolo questo vero motivo. Sentiamo questo vero motivo. Allora, noi sappiamo, piccolo background, i ragazzi saranno sono a Bruxelles, una schedule molto busy, saranno a suonare domani, suoneranno domani all'Antitapas, che è qui vicino, esatto. A Cordeale, all'ex cantina. E avranno poi tanti concerti in giro soprattutto per Bruxelles nei prossimi mesi. Raccomandiamo domani sera Antitapas al, com'è che si chiama? L'ex cantina. Freschimi all'ex cantina. In Vlogart 4. Ricordiamo le prevenite alla Piola. Prevenite alla Piola, se no direttamente alla porta. Direttamente alla porta, sì. E quindi purtroppo non troverete me domani sera. La serata inizia, non ci sei? Ma io volevo esserci. E poi c'è l'amorosa che mi visita. Allora ha detto, ma la storia è più completa. Se mi fa, non sono mica l'amorosa che ti tiene in casa, giustamente. Allora va bene, allora magari posso andare. Sì, se tu vuoi puoi andare. Il giorno dopo torno a casa. A proposito, ho preso il vino per venerdì sera che mangiamo, ti preparo cena, poi ci guardiamo un film. Scaccomatto. Come faceva quella canzone? Servidella. Di tua sorella, servi tua sorella. Qua la testa mi sa che pure bassa, tra l'altro. Occhio spento, dice di cemento, lei è mio piccione, di un suo monumento. You need to understand it. No, I understood it perfectly. Sorry to hear about you. Speaking about slaves, but normal things. Everybody's had to... I nostri ascoltatori non vogliono saperlo. No, tanto lo sono pure loro. Cioè, come tutti quanti noi uomini, per carità. Anche Giulio, guarda cosa si è fatto fare i capelli. Per esatto, pur di piacere una donna, guarda te. Esatto, un po'. E quindi, insomma, quindi stasera faremo. Abbiamo già avuto la prima canzone. La canzone diventata prima della sigla era Laura Lee. Beh, era una canzone del loro nuovo album. A che ora suonate domani all'Antitapa? What time do you play? Alla 11:30. 11:30, ok. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se arrivate non troppo tardi, perché alle 11:30 ci sono loro. E non ubriacatevi troppo, perché sennò non riuscirete a gustare. But before us, there will be two other groups who are playing. Yeah, okay, but we pull besides you, not everybody. Are you the rich nation? You are here, no one else. That's right. Noi siamo qua a supporto vostro. Noi ci crediamo. We believe in you. But we don't believe in no one else. We don't know anyone else. So tomorrow, domani alle 11:30, vi ricordiamo anche comunque i prezzi sponsorizzata da Radio Alba, quindi insomma noi saremo lì. Esatto, io ci sarò, penso proprio. Giacomo se vi riconoscerà perché le volte che l'ho visto non mi ha mai riconosciuto. No, è difficile. E quindi insomma. Allora, abbiamo già ascoltato Laura Lee, che era la canzone di apertura prima della sigla, e tratto dal vostro nuovo album. Il mio album è called Sarsaparilla Jacuzzi. Sarsaparilla Jacuzzi. Sarsaparilla Jacuzzi. That's cool. So I think you're ready for another song from your album. Giulio, siamo pronti? Siamo pronti e ci ascoltiamo B-Train to Barracksville. Ascoltiamo, we listen to this. Giulio. Ah, olè, bentornati su 100 città. Abbiamo appena ascoltato i nostri grandiosimi Benito ospiti. Benito Juarez Revolutionary Band. Benito Soup Band. Benito, sì. Di Zuppa. Qua. Benito Soup Band. Benito Broth Band. Ricordiamo, saranno domani, saranno per qualche mese a Bruxelles, saranno domani all'Antitapas a partire dalle 11:30. Stasera in esclusiva da noi. Per noi. Abbiamo avuto contatti lunghi dei mesi, sono mesi che cerchiamo di portarle da noi. Esatto, ce l'abbiamo fatta, però se volete contattarli muovetevi perché poi scade il visto e vi rimandano in America. Potete contattarli direttamente telefonandocelo 02345 2656. Se volete avere magari più informazioni su di loro, c'è anche tipo la nostra il loro CD, poi potete farcelo sapere tramite la nostra mail radio.100citta@gmail.com. Ricordiamo che voi avete anche un MySpace, un sito internet che è myspace.com/benitoband. Abbastanza semplice, mi pare. Molto facile. Persino per me. Ce la possiamo fare. Ma non è tutto. Attenzione. Abbiamo stato girare due canzoni di Benito Band, ma noi abbiamo qui una cosa unica, perché loro suoneranno in esclusiva per noi stasera live con uno strumento che Scott non suona mai, che è la chitarra. Yeah, e quindi si stanno mettendo d'accordo. Grande occasione. Partiamo con la, allora, con la performance live di dei Benito Band. Stanno accordando la chitarra. Title: The song is called Never Named. Never Named. La canzone è chiamata Mai. Chiamata. Mai. Mai nome, mai nomata. Mai nominata. C'ha una storia? Like, got a meaning? Or you want to explain it before? Oh, playing? We'll talk after. About the meaning behind it next time. Ah, ok. It's for a woman. Qua c'è sotto una donna. Qua c'è sotto una donna. Ma con che carina vera che fa. Quindi la dedichiamo a tutte le fanciulle in ascolto. Compromise in a world gone black, white, purple, and green. I've seen the queen and the look in her eyes, followed me folded and feathered, made to order, stayed like a corduroy, three-piece button down, flash in the pan. The stands are handing out crooked disguises, hollowed out holes in the heavens. Pay the bill and flatter thy neighbor. Hand me down goodwill from platinum saviors. Count the till and tip the tailor. Rip off the ribbons of reason. If it's safe to take it easy in the alley, then I'd hate to make it any other way. Fake, forsaken, freezing, failing gladly. I won't worry while I waste my days away. For 10 ticketed teardrops tethered to tokens, I'll take your fancy swimming in the river. Wash away your worries with the one that wavers wanton. Watch the waters trickle from your brow. Lo, cries the merchant, hallowed be thy fame. A spectacle for your eyes only, you wished it down the drain. A kiss to remember, treasure to forget, soaked in fortune's halo around your neck. If it's safe to take it easy in the alley, then I'd hate to make it any other way. Fake, forsaken, freezing, failing gladly. I won't worry while I waste my days. Oh, worry while I waste my days. Oh, worry while I waste my days away. Che musica su Radio Alba! Bravissimi, al plug di Imbrasco! Proprio! Ascolta di chitarra! Bravi. Bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, un po' bravi, country, grazie. Un po' country, la Lumberjack Country ska. Well, the guitar songs sound like country songs and the organ songs. I don't know how to play very many chords on the guitar. No, no, ma veramente bello. Bravi, poi unplugged ancora più soddisfazione. Assolutamente, grande soddisfazione. Che musica, esatto. Su radio, che serata. Che serata, che occasione serata. Speciale. Ci sarà un'altra occasione speciale in cui i nostri amici suoneranno, sarà il 26 febbraio al un posto che si chiama Lex, su Rue de la Loi, numero 40, PAF, che mi hanno spiegato vuol dire... A Rue de la Loi esistono dei locali, pensavo esistessero solo istituzioni europee. Adesso sai anche le storie locali. E Puff mi ha detto che vuol dire partecipazione offre. Partecipazione offre. Quindi 4 euro, insomma, non so cosa vuol dire, però meglio che se le abbiate questi 4 euro, perché comunque valgono molto di più per sentire Benito Ben, che suonerà insieme a Mad Incina, Waka, General Bazaar and the Cardinal Points of Conspiracy, per una buona causa. Una buona causa, che è HELP, Haiti Emergency Life Project. A partire dalle 20:30 il 26 febbraio, per aiutare una piccola NGO che operava lì prima del terremoto, quindi ci sarà sicuramente una presentazione delle loro attività prima e quello che andranno a fare con i soldi che si raccoglieranno. Quindi sentirete un fundraising, e bravi che partecipate a questo fundraising per Haiti, ricordiamo comunque. Esatto, esatto, quindi un ottimo motivo e un'ottima occasione da unire facilmente con 4 euro. Con 4 euro e vedere Benito Ben. Benito Se Ben. Non avete avuto abbastanza domani sera, potete... 26 è un venerdì? 26, non aspetta, sì, venerdì. It's a Friday. It's a Friday. And so, Friday. If you haven't got enough, even the functionary from the institution, che they are really close, they have more than 4 euro, I guess. But they can pay more, that's the beauty of it. It's 4 euros minimum. But then if you're with someone, maybe you want to impress someone, you want to show them how generous you are, and you can offer, you're welcome to pay 40 euros. Se venite con la vostra fidanzata, tipo Giulio, tu che vai, bravo, tu il tuo taglio di capelli, non c'è bisogno di impressionare. Se andate tu il tuo taglio di capelli e Elena, tiri fuori 100 euro. A parte che Giulio già impressiona così. Sti cazzi. These dicks. I will translate. Traduzione proprio letterale. Giulio non deve impressionare assolutamente nessuno, perché con quei capelli comunque impressiona lo stesso abbastanza, esatto. Sono assolutamente abbastanza. Io pensavo l'angolo della cucina lo vogliamo fare, esatto, la ricetta canadese. Cazzo, ricetta canadese, partiamo col jingle, sigla, e gliela spieghiamo dopo, ovvio, pronti, ta. Allora ragazzi, benvenuti al nostro angolo cucina. Welcome to Kitchen Corner. So we have this, every guest has to pass through this. So it's a kind of essence, but most of all is a school for our our listener, that they learn how to, let's say we are foreigners here. Okay. Usually we have Italians, but not always. Sometimes we had foreigners speaking Italian, or like in this case, not speaking in Italian, but understanding Italian. That's a bit. Try to suggest a meal for a man to impress a woman in order to get something from her without getting her drunk before. Exactly. So you have to respond to this question: how could you conquer a woman and sleeping with her without getting her drunk? Exactly. With a wonderful Canadian meal, something like, you know, maple juice, un bel piatto canadese. Suggeriteci qualcosa che non sia un piatto canadese. Amici da casa, pronti con la penna? Esatto. Io apro la penna. Ho il foglio. Prego. Dave should answer this one in detail. Messaggio. Well, I would say, in order to get a woman into bed, just with food. Exactly. Solo con perplesso comunque. I would start off with a sage bruschetta. La bruschetta? Bruschetta. Ma no, quella canadese. Cosa canadese? Bruschetta è canadese, eh? Ma no, no, da dove? Bruschetta è italo canadese, sì, no? Italo canadese. La pizza di Manhattan, dai, su. Sta bene, italo canadese. Sì, qualcosa di Canada. We want something from Canada. Canadian. Yes. You don't seduce women with food. You don't seduce women. We will have something. We make in Canada. We eat steak with potatoes. And you impress them by cutting more timbers than your neighbor. Like, see, I... Okay, loro mangiano un sacco di carne. No, I would make a duck in a brandy raspberry sauce. That's very Canadian. Interesting. Quindi anatra. You make your lady a duck with. I actually made my special lady a duck with brandy raspberry sauce. Explain how to us and to the people that are listening. Did you buy it to the Asian takeaway, or did you make your No. Well, I started with beef bones, onions, carrots, and celery, mm-hmm. and I put it into a pot with water, and I reduced it until it was a thick sauce. Strained out all the bones and the vegetables, flambéed some raspberries with brandy, added the sauce, and then poured it over my pan-fried duck breast. Abbastanza semplice. Quindi mettiamo carote, cipolle, raspberry, che sono tipo lampone. Raspberry sono le lamponi. Lamponi. No, blackberry sono le. Bravo. Ce l'hai tu in tasca, l'amore. Dove? li mettiamo in una pentola piena d'acqua. No, lui ha detto fare una specie di brodo, cioè una specie di riduzione con le ossa della bestia. La bestia, vero? Sì, ha detto ossa. Io già stavo pregustando. Ossa e verdure e fare una specie di brodo, una riduzione, diventa una salsa. E poi far saltare col brandy il lampone. L'anatra, non il lampone. L'ampone. Saltato col brandy e poi dopo letto sul quale ci metti l'anatra. Io stavo già immaginando. Però è bello, un bel piatto interessante. Io sono una donna, sinceramente. Mostruoso. Poi c'è il brandy con le donne, le ubriachi col mangiare. Esatto. you put the booze in the food and then they don't know that they're drunk. Exactly, you're very wise. This is wise, this is dangerous. This guy knows. Italian radio, Scott. Oh, right. per chi volesse provarla, comunque potremmo provare magari anche a legarla alla nostra. Dobbiamo iniziare ad allegare le ricette al nostro blog. Ci dovrebbe pensare quello, belli capelli lì dietro. A belli capelli. Le ricette. Bella idea, bravo. È interessante. Possiamo allegarle. Eccoci. Quindi questa era anatra al brandy. Al brandy lamponi. Alleghiamo. Your recipe will be online. E now blog radiano.blog. Esatto, per chi non ha la fortuna di ascoltarci dal vivo, può rivedere su radioalma.blogspot. Toccare, mangiare. la loro bellissima ricetta. Oppure potranno anche chiederla in diretta se vogliono telefonare adesso allo 2245-2656, oppure domani sera a partire dalle 11:30 all'Antitapas potranno chiederla in diretta ai nostri ospiti. Possono direttamente andarla a mangiare da loro. O possono addirittura, se siete donne e volete comunque avere una buona cena, non accorgervi di essere ubriache, avere anche la scusa per dargliela, vi consigliamo di andare a trovare direttamente a casa. Poi suonano anche. Che ne suonano, dire? Dio boh, ma quello suona la chitarra non tromba. Esatto, infatti poi ci va qualcun altro. Ci andiamo noi! Spettacolo. Qua però, cioè, poi il tempo stringe. Ci sta un'altra canzone, che dici? Infatti, Giulio, stavo pensando. Un'altra canzone di Benito Band? Di Benito Band, mettiamo Le Filles du Roi. Le Filles du Roi. Vai. Olè! Che musica, ragazzi. Oggi trasmissione veramente di cultura. Grazie ai nostri Benito's Band. Questa è veramente stata una puntata trasmissione di persone adulte. Esatto, ci stiamo gasando. Ricordiamo che non parliamo di figa. Ah, quasi. Abbiamo parlato di figa. Quasi, infatti, ho detto quasi. Però comunque meno del solito. Meno del solito. Ma parecchio. Ricordiamo, queste erano tratte dal loro ultimo CD che hanno portato stasera. Il CD che si chiama How many CDs did you do? Salsa Pariglia Jacuzzi. Questo impronunciabile, ma un nome più semplice, ragazzi. Simpler name. I mean, people probably want to remember. Jacuzzi, vabbè. It's very sexual. People remember the feeling of Benito Band before they. Exactly. Good answer, dude. Bravo. Solid answer. The name doesn't matter. The name doesn't matter. It's the. Questa è la risposta. Bravo. Is it your first CD or. No. No. Let's say the title of the others. Ditemi gli altri titoli. First we made a Benito Band, the two-man gentleman band, which was we made in a basement somewhere in Brussels. In che anno? Which year? In 2008. Okay. And then we made the next spring we made Sasparia Jacuzzi. And then before we went to Italy, we actually Dave's van kept breaking down, and we needed to raise money to fix the van. And so we made an album in a basement, in a real dungeon here, and we called it La Macchina è morta, viva la macchina. And this was meant to pay for the van when we went to Italy. It didn't work. We had a plan. We got a funny name. Well, now it's kind of a garage city, so it's going to be very, very, very, you know. Very searched by all your fans when you become very famous. You're already very famous. Hopefully they won't find it. They'll keep looking though. your album's gonna be on sale on the Tomorrow Night. Yes, definitely. Se ricordiamo che comunque il CD che avete, di cui abbiamo ascoltato tre brani stasera, sarà in vendita domani sera. Esatto. E a tutte le occasioni in cui Benita Ben suonerà. Al magico prezzo di 15 euro. How much is the CD? 15? The CD is 10 euros. 10 euros! 10 euros. Oh, 8 euros! 8 euros if you say your friends. It's 10 euros. Of Cento Città, but only for friends of Cento Città, right? 8 euros for friends of Radio Alma. Exactly, this is how we like it. Now, allora, abbiamo pochi minuti e chiudiamo come i grandi show. Esatto, prima di lasciare la parola ai nostri carissimi. Carissimi, che già vedo dall'altra parte dello specchio. Giro di Boa, Giro di Boa, restati in onda dopo di noi. Pronto a entrare e a prendere il loro posto. A volte sembra che il mondo non abbia senso dopo di noi, ma invece no, invece c'ha sempre senso, molto più senso che mai. Però prima di lasciarvi, a questo punto vi facciamo ascoltare l'ultima canzone dei Benito's Band. A questo punto direi che ci possiamo congedare. Giulio, ti saluto. Ciao ragazzi, ciao caro. Io vorrei ciao. Ricordare che suoneranno domani sera all'Antitapas all'ex cantina Rue Vlogart da partire dalle 11.30 al prezzo da 5 euro. Suoneranno anche il 20... a 75 euro 5 euro il prezzo all'entrata. Puff. Accorrete numerosi, accorrete numerosissimi, potete acquistare il CD, potete anche dire quanto sono bravi quelli di Cento Città e... potete anche toccarli e suoneranno anche il 26 in Rue de la Loi 40 a PAF 4 euro, è una serata in aiuto di Haiti, quindi insomma ancora numerosi, giusto, sia domani che tra due settimane. Noi ci vediamo sicuramente domani con chi ci sarà, io sarò lì presente, tanto la mia faccia non la conoscete quindi non mi potrete riconoscere. A me una volta hanno detto: ma tu c'hai una voce familiare, tu mica senti da qualche parte. No. Io forse urlavo ubriaco io ho ceduto, ho detto, sì, forse mi hai sentito in radio. Bella ragazza, Valesio. Poi hai chiamato tua mamma per dirgli. È la mia mamma, esatto. Esatto. Allora, comunque lasciamo Casanova al suo mondo. Frate, casa vecchia, sì. Ti abbraccio. Io da lontano. Le tue battute fanno cagare, ma non importa. Ti voglio bene anch'io. Esatto. Un saluto dal vostro affezionatissimo Jack. Vi lascio in braccio ai ragazzi della Benito's Band. Prego. What's the title of this next track? Ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. Allora, chiudiamo. Qual è il titolo di questa canzone? The next song is called Romeo. Ale Romeo. It's ciao. A brand new Benito's Band. Cool. Yeah. Traveled all the world and now you're sleeping.